sai, bimba mia, che impazzivo soltanto per te. Mai, mai, mai più io potrò accarezzarti, mia dolce bambina. Mai, mai, mai più dolci frasi d'amor sentirai come un dì. E per sempre scordarti dovrai un amore così. Ero pazzo di te, eri pazza di me, ma purtroppo capì che non eri per me. Da quel giorno che tu mi tradisti così, perché puoi non quei dì. E tu sai, bimba mia, che impazzivo